c'è l'uomo, parla. Ma si è cagato, dice, eh? Tutto che si può immaginare è tutto. Ma io ti stavo ascoltando, ma lui non lo sentivo. Ma non lo sa che il tizio che dico io, ma lo posso... la posso la pesca, è tutto. Non No, io non lo sento. Salutamelo. Domani volevo portarti i fiori, ma la conosce Grimaldo. Camuffa, bene, camuffa. Piratone. No. Dimmi dove andare, io. A Canoce. E dove, in che zona? Vicino alle poste. No, ho già capito chi è. Non parli. Non parli. Ah, miserabile, non parli. Lo conosci bene, lui? Chi è lo conosce? No, ma hai capito in che senso te lo sto dicendo? No. Che senso? Ma lo stesso lavoro che facevi tu? No. Non mi trovaglia dove è diverso. Piattone. Lui, già è lui. Quello sto dicendo io? Ah, no, no, no. No, se no mi pongo un po' grande a casa sua. È quello che ha detto una persona, non importa il nome. Se vuole entrare lui, bene, se no... no, ha già ragione lui, è quello già. Vabbè, dammi 2 minuti, dai. Sono le persone furti che si nascondono dietro il microfono, camuffandosi la voce. Cosa ne hanno? Niente. No, no, niente. È meglio così, va. Perché? Va. Cosa vuoi dire? Da ieri sera. Va bene, va bene. Non si deve neanche preoccupare più di tanto. Gliela facciamo una festa, va. Ti so perché lui, non per altro. Ma tu chi ce l'ha? Te rompo le palle, non ce l'ha. Abbassa, aumenta. Chi vuole lo può fare? Ma se non è un Kenwood è sempre un apparecchio professionale. Ma nessuno li proibisce di entrare e di parlare normale. Ma se è malato ora ci può fare. C'è uno problema, non so. Ma a volte si butta, non c'è problema. Ora sta lì a rompere la scatola agli altri, poi camuffandosi. Ha ragione chi ha detto che è quello. Tizio, ha proprio ragione. Vabbè. Quando la gente non sa cosa fare. Ma è sempre stato così, Henry. Anche peggio. No, allora la conoscete bene. Cosa? Allora la conoscete bene. No, parlo in generale io. È stata sempre così la frequenza. Anche peggio. No. Non dico che io sia un santo, però. Vabbè, perché adesso se n'è andato, non c'è più. Vabbè, non c'è più, no. Vuol dire che è andato in bagno. Mette la catena. Scusa, un gabbardetto della catena. Non parla più perché, vista. Sono entrata io, dai, gli ho fatto piacere e se n'è andato. Coordinate di Madelta. Ah. Tenere nascosto. Non parla, Brice, sono io qua, la Terolce. Hai visto, non entra più. Ci crede furbo lui, me. Lui è un trans, vabbè, lui, cosa lui? Lui lei, dà, un mix. Ah, attenzione, che qua Torellino, se lo becca gli fa passare tutta la mania, me. Che vittoria. Male mosso. Luigi, male mosso. Domani, speriamo domenica sia buono. Poi ti credi che praticamente siamo scesi stamattina al mare, no? E a Platamona era agitato, però all'interno, diciamo, in profondità del mare Non era agitato, era calmissimo, olio, olio, olio. Arriviamo lì a Batamo, era un bel agitato. Dipende dai punti anche. Ma lo trovi meno agitato. Ma no, speriamo che lui cacci la morte. Cacci la morte. Pazienza, adesso per fare. Ora fammi un paio di lanci. Storia, ma tu non sei niente per domani, visto che devi andare a pescare. In che senso, Lu? Come il mare? No, negativo, stamattina era buono. Stamattina era buono. Poi adesso stasera, quando scendo te lo dico. Ehi, passo lì per andare a Bartolini, no, passo davanti lì al mare. Manca, pa. È finita ancora. Quattro consegne mi mancano, quattro. Sto uscendo fuori di testa, non ne ho più Puglia. Ehi, vabbè, quanto ne hai fatto? 50. 55. 59, allora. Ehi, ja. Praticamente fai quei quattro lì e c'è il vuoto. Vuoto no, perché c'ho dei ritiri. Ho fatto dei ritiri, quindi c'ho merce da scaricare per la Bartolina. Ma questa merce che vuoi ritirata, perché? Per quale motivo? Magari abbiamo dei clienti che devono fare dei risi, no? Che non le va bene la merce o merce difettosa, allora la rispediscono con noi. Ah, ecco, merce difettosa, un po' danneggiata, eh? Gaffa, gaffa. Bene, veda, bene, veda. Quando fai il ritiro devi pagare tu, vero? Quando fanno i ritiri, Lu? Devi pagare tu. No. E devi rimborsare i soldi a loro. No, no, quando un cliente fa un ritiro perché c'è merce difettosa o merce rotta, paga sempre la mittente, paga. No, perché a noi è capitato che abbiamo ritirato questa busta, un pacco era. Più che un pacco, una busta. Ha dovuto pagare, quando stavo facendo il giro con la TNT, io mi sembra, gli ha dato il corriere alla signora. Il corriere alla signora? Scappa, mi ha pagato, mi ha rimborsato 7-8 euro. Sicuramente allora è quella di quelle pubblicità rimborsa, cioè contenti o rimborsati, una cosa del genere. Non lo so, comunque ho visto, gli ha dato i soldi. Ah, gli ha dato il resto, no, lui? No, gli ha dato 10 euro, gli ha tornato 3 euro, mi sembra, 2 euro. Dipende dal corriere, noi non ne facciamo mai cose così. Ti anche i soldi? E gaffa. Una volta quando abbiamo consegnato un pacco, c'era una pedana di quelle piccole piccole. C'era da pagare quasi 5.000 euro. C'era quella gamblubea al letto. Io guarda, ne ritiro dai 4 ai 5.000 al giorno, tra assegni e contanti, guarda, ho preso le balle. Ia. Poi c'erano pacchettini, quelli del... con le buste, c'è un pacchettino dentro. Quelli che... Euro shopping, come si chiama? Le cremine sono quelle lì, ma anche non si ritrovano che è andata di China. 70 euro, 50 euro. Perché fanno il prezzo delle creme più la spedizione, il trasporto, capito? E sono 15 euro di trasporto, dai 15 a 16 euro di trasporto. Ah, uscire. Una volta è capitato a me, devo pagare questa qua, 69 euro e 80. C'era una cintura, adesso non ho messo io. Come sono controllato, c'erano 30 euro in tasca, mancavano 20 centesimi. Ho detto, ma no, signore, non me lo fa niente. Praticamente gli ho dati di tasca mia, dai. Cioè, non mi ha turrati i 30 euro. Vabbè, no, io quando c'è per esempio 65,40, 65,50, dico sempre 66, il resto mangia, gatta. Sai che ci perdono gli anelli, Vabbè, io. te la porto fino dentro casa, molte volte io consegno anche fino dentro casa. Ah, 2,50, 2,60 centesimi, ma me li dai e poi prendiamo un caffè. Ad arrivare qui a prendere un caffè. Vabbè, giusto. C'è gente lunga, anche 10 euro di mancia mi dà, guarda, io sono fortunato qua in queste zone, eh. Gappa, io arrivo anche a farmi molte volte 20, 25 euro di mancia al giorno. Quindi invece guadagnarne 50 e guadagnare 65. Gappa, gappa, buono. Buono, buono, ogni giorno. Quasi ogni giorno. Vabbè, comunque la media ogni giorno quanto riesci a sgobbarti? 10, 11, 12, dipende. No, vabbè, sulle sigarette e la colazione. Così non spendi niente dal come si chiama? Dallo stipendio. Gappa, è molto molto anche il gas della macchina, quando riesco a farmi 20 euro mi pago le sigarette, il caffè, colazione, ma le varie e poi mi metto 10 euro di gas in macchina. E tu lo stipendio fisso universo. Però molte volte lui non è troppo, capito? Ecco, molte volte guadagni solo quelli lì e buco. Ricordati una cosa, attore, sono quelli che non ne hanno, te ne danno. Quelli che ne hanno, non ti ne danno. Ehi, gappa, dammi 2 secondi, ce la prendo un caffè lui. Ehi, proprio vero, proprio i poveri te li danno, i ricchi non ti danno nemmeno un centesimo. Vai di cerretta. C'hai ragione, è proprio così. Sono ricco di un attimo. E tu sei caro, vieni a Stefano, dillo a Stefano che c'ha, che ne sa qualcosa. Vabbè, diciamo che se doveva lavorare lui non è gente morta di fame, no? Cioè fare uno scavo e perché ballacche. Ma Finea vuole sempre a togliere, diminuire. Sì, ma è un prezzo, lui vuole sempre diminuire, così è. Sì, a sconti. Ti sconti pure. Perché se si rompe lo scavatore poi se lo pagano loro, no? Appunto, i disastri li pagano niente. Il gasolio, sembra così, ma consumano quei mezzi lì, eh. Ah no, soprattutto la Serna, alta quanto giusta. Lo so, c'è gente che guarda, per fare uno scavo non so quante, insomma che sia, non mi ricordo chi me l'ha detto, 150, 100, 200 euro a ora. Dipende da dove vai, ormai a ora non ci va più nessuno. Ma già fa una giornata? No, a blocco. Sono a blocco? Cioè, prima o poi meglio vai? Vabbè, noi ci vogliamo a fare uno scavo, dipende da che tipo di scavo devi fare. E dipende da come è il terreno. Anche, se vuoi martellato. E appunto, adesso ieri ne hanno finito uno al ghiero. Grande? È un bel po', dai, era abbastanza grande. Ma, cioè vabbè, oddio, grande, profondo. Sì. Tipo quello che hanno fatto lì in piazza, ma all'emiciclo. Tante, quanto è profondo quello. Cioè, quello è uno scavo. E vabbè, lì c'erano degli scavatori giganti, quelli grandi. Beh, lì ne ha perso già ce ne sono soldi. Ti faccia due sassi, no? È un punto buono, tutto rotto. Hai visto quello scavo che c'era su che sta il segno dove hanno fatto quella palazzina? Quello? Lo scavo dove c'è la palazzina lì che sta il segno. Piazzare i segni. Dove però? L'hai visto dove si mette il master, più avanti del master, sempre sulla. Salendo dalla parte di Ottolini, là diciamo. Dove si mette il master? Lì non c'è, un po' più avanti che c'è un colossavo, hanno fatto quella palazzina grande. Salendo sulla destra? Cappa. Eh? Colossavo l'ha fatto Stefano. Ah, l'ho visto io, a tuo marito, lo sai, ho visto uno scavatorino, può essere? No, l'escavatorino dopo, no, l'escavatore grande c'aveva. No, io ho visto un tipo uno scavatorino, ma così di, ma lavoravo lì da, facevo la lavaggista lì via come si chiama? Lì in via, via, via Carlo Felice, di fronte a Scandellari. Capito. Passavo un giorno lì, andavo a lavorare. E avevo questo tipo, lo scautone, non ci pensava mai, non è che ci guardava sempre di spalle. Stavano lì per la strada, non so cosa stavano facendo lui. No, lui aveva fatto quello stavo lì, quello grande lì. E poi nulla, finito lì. E abbiamo terminato lì il palazzo. Sì, quasi terminato. Infatti però loro non ci sono più. Gente gli ha abbassato il prezzo e quindi è entrata altra gente. Così funziona, Harry. Quante volte dovevano fare per dire un lavoro qua a Sassari? Chiama un'impresa di qua e spara, non so, 100.000 euro, ti faccio un esempio. Ha detto lì fuori che ne prende 70. Sì, sì, è tutto vero, è proprio così. Allora, più risparmio è meglio, no? Però non va sempre la gente di fuori. Ia. Poi tu mi dirai, come fanno a guadagnare? Adesso tipo, come cavolo si chiama? Dove c'era la stand up prima, il Gatta Marconi? Come si chiamava quello lì? Quel non so come lo puoi chiamare, centro commerciale. Ma Queen? Queen, sì, quello lì, allora, il cartongesso, io stavo lavorando lì a parcheggi. L'ha fatto come si chiama? Un coso da. Un'impresa di siciliani erano. Tutto loro l'hanno fatto. È un casino. Quando iniziano a casa abbassare i prezzi è un casino. Ma comunque funziona così lì. È così. Purtroppo. Ce l'abbiamo qui nel travaglio. Siamo là fuori. Hanno su internet, a Vuglia, a Ciappanni. Dice, ma io ho trovato questa impresa qua, mi ha sparato tot, devo fare questo e quest'altro. Quanto mi prendete voi? No, scendono un canale di prezzo. E lo fanno loro. Sì, e allora? Pensa che, allora, Stefano, vabbè, prima di mettersi a punto il suo, lavorava con... aveva fatto a Sassari le fibre ottiche, no? Poi aveva fatto il gas, aveva passato il gas. E niente, prima di entrare con quella ditta lì, lavorava con questi di Taranto. Erano di Taranto. È stato 8 mesi con loro. Anzi no, di più, perché 8 mesi viaggiava ogni giorno per andare ad Arbara. Ah, che po'. Anche il chilo muscolo è scavato vista. Beh, mi ha detto Stefano. Raga, non hai lavorato con una ditta dove stavo lavorando io, no? Con un'impresa faceva scavi, in più faceva cosa, dai, come si chiama? Ma piatti di acqua, però tubi quelli di alta pressione. Vabbè, lui ha lavorato con la Seghe. Questa qua si chiama Confossar, mi sembra. No, Stefano no. Però ho lavorato lì, come manovale, però. Stavo imparando a usare il... come si chiama? Lo scavatturino. E... preso lì a noleggio a... da Scandellari. Ero il capocantiere. Pure a Bilia del Musso. A volte ce ne sono che è allucinante. Dove, cioè, Stefano, la verità, non ha mai avuto niente, perché lui guidava la Serna. Tu pensa che è stato il primo, cioè, mi ha scavato 23 km di fibre ottiche a Sassari. Addirittura? Sì, era uscito nel giornale la sua squadra, no? E lui c'era una squadra. Praticamente loro sono stati i primi a scavare 23 km di fibre ottiche. Ma adesso lavora tuo suocero è così, è il tuo marito. Ehi, loro due sono un'impresa di mio socio, no? Cioè a conto loro sono, dai. Uno scava, l'altro carica e va a scaricare, com'è? famiglia, uno usa l'escavatorino e l'altro usa il camion. Ma anche tuo suocero ha la patente alta? No, no. Ah, ciao, sono Stefano. Che patente ha? La C, solo, la C e la D. Ah, C e D, ho capito. Diciamo che con quelle patenti lì già trovi qualcosa. Ma sai, ma dipende da... Dipende anche che età hai. Secondo che età hai, neanche ti prendono. Infatti dipende. Vabbè, se sei bravo già ti prendono. Se lo sai guidare il camion già ti prendono. A lui è sempre piaciuto, capito? Lui prima di cosa si sì, spostava, però guidarlo proprio non l'aveva mai guidato. Poi si è preso la patente e si è comprato il camion. E ha iniziato a guidare. Sembra lui, io ce ne voglio un bel risulti. Bomba. Non è facile, Enrico, Non è facile, ti può andare bene o ti può andare male. È così, Più di uno dice, ma mi devo lavorare sotto principale, perché lavorando in proprio no, si pagano molte tasse e tante cose. Quello sì, un bel di tasse, un bel di trattati, tarpano di tasse. Ne sappiamo qualcosa. Casino, va di dove? Mi ha messo, sono tornato, dai, riprendete, ma già sono qua all'ascolto. Gaffa. C'è l'amico ritornato. Ti arrivo allora, sì. Ciao, bello, rientra e fatti sentire la tua voce. Vuole entrare lui, neanche la mia voce gli piace. Se è floscio. Allora no, andava. Ma pure lui ha la voce come la tua. Carità. Siccome non c'è niente da fare, allora entra a baracchia, rompe le scatole agli altri. No, vai là dove ti sto dicendo io, vai. Adesso non mi sono lontanato, se no ci sarei andato sì, ero lì mi sono andato fuori da settimana di Pisa, però non stavo più parlando perché non lo stavo sentendo. Dimmi, mica è Marco Simona Favilda. Sì, ma deve stare attento che faccio scherzetto io, perché c'è una magnetica che ha piatto sulla macchina e la bussa a fare i suoi mi. Vediamo che la macchina è reale a Cuddu. No, lì è a Cuddu un'altra cosa, non andare della macchina. Un cannavo lì a Cuddu, lo diri, deve fare un giro. Mi dici di nuovo giro o va a corsa? Era lo giocavi, stai facendo una gara. La puoi vedere, non ti preoccupare. Attende a volte di dole il pane, Riccola. Vuol dire che gli piace il dole. Sta tutto, bubu. Sta a presentarsi e ci conosciamo subito. Per parlare bene. Chi sei tu? Per parlare bene. Perché? Perché sei un po' più educato per poche vita. Ma chi è Alessandro? Fate su di gioca. Adesso cerca di parlare bene, chi è? Cercate di parlare bene, perché se vedete la concessione, non si può parlare così. E tu hai la concessione? Sempre. Di plastica. Sempre. Dimostra la nostra concessione tu. Io ho saputo che non ne hai tu. Basta venire, vieni. Vieni, se non c'è la concessione ti porti via tutto questo che c'è qua, tutto però. Ma non ho paura. Io ho paura di te. Possiamo vedere. Basta venire, non c'è problema. Se venire, se vieni e guardi. Se non c'è la concessione, vieni e ti porti via tutto. Non ti conosco a te. Ma mi conosci? No, so. Meglio che non mi conosci allora. Sei sceso dalla luna? No, dal cielo sono sceso dalla luna. Ma tu stai mettendo la portante? A nessuno io, ma se io sono educato, una persona pulita. Sei una persona? Pulita. Unica? No, pulita. E cos'è, signora signorina? Ma la cosa mi sembra signorina. Ma stai attento però, ti frappo che non sei pulito, mi. A chi si è tagliato non lo posso vedere quanto si è pulito. Scemo. Perché non è di presenti? Appunto. Una persona pulita o pulita, come hai detto tu. Vicino, passa su canale 9. Voglio dire una cosa. Vicino, canale 9. Stare nel giro o se ne va? Signora, ma questo è un po' prepotente, questa cucina. Lo so, ma se è logico si comporta così. Vicino, passa sul 9. Se tu vuole lei, ti presenti, se ti va bene di stare a parlare qua, rimani tranquillamente come siamo noi. Altrimenti, ciccia, se ne vai. Io la penso così, poi non lo so. La sto facendo io e la stanno facendo loro. Se tu ti comporti da educato, lui dico che anche loro si comportano così. Hai visto, pupazzo? Ti sta dando una lezione una donna mia, hai visto? Una lezione di educazione, pupazzo. Bene, scusate, allora me ne vado, Ma da dove stai modulando? Io? Porto Torre. Ah, Porto Torre. Allora, se sei di Porto Torre, se basta entrare, lo sentiamo chiarissimo quelli di Porto Torre. Tranquillamente, non c'è bisogno né di mettere portante né di non metterla. Ma tu ci credi a Porto Torre, c'è la pidozia. Oh yeah. Porto Torre c'è un cerino così forte. Oh, Marco ci attacca. Non che arriva Porto Torre, c'è qua, 7-8. 7-8, ma non che carica un bel. Tu sei a latte dolce, no, punto. E paga la tassa. Non lo dici come ti chiami? E a te lo dici lì. Beh, io sto parlando tranquillamente, no? Oh, via, lascia perdere lì, lascia perdere. Vattene a lavorare perché stai un giorno lì a cercare la gente, vai. E tu vai a fare la cagata invece. Poi te la mangi. Ma io parla tranquillo con me, lascialo perdere a Luca un attimo, dimmi come ti chiami. Luca, vado bravo, perché vengo a mettere la tua acqua a correre, io Luca. Vieni, Maro, vieni, vieni. Vieni però, vieni. Ma lo conosci a Luca? Vieni però, vieni. Questo che lo conosco, lui non se ne ricorda di me, ma io sì. No, allora perché c'è bisogno di stare così. Basta parlare tranquillamente. Ti diamo fastidio perché stiamo sempre modulando. Oh, posso rimanere qua, tanto mi pare che mi piace. Poi al 24 sono 24, te non si vuole nulla. Prima di tutto. E paga la concessione, ora pagano gli altri. È abusivo tu, abusivo. Un attendino abusivo. Stavo di concessione io. E su Gusi ma qua per farmi l'antenna. Ma dimmi tu a sta gente che. Al giorno d'oggi ci sono troppi controlli, quindi bisogna pagarla tutti la concessione, sai? Ma lì che lo scemo si piazza l'antenna senza pagare la concessione. Proprio ci vuole coraggio, perché il verbale è talmente alto che ti fanno bello. Non so, ti denunciano pure. È già me l'ha detta quella di Cagliari quando ho fatto la concessione io. Mentre signora, lo sa la cosa, quanto, la multa quando è? Bisogna pagarla, eh? Ho fatto va bene, tutto a posto. E ho mandato tutti i documenti e abbiamo pagato. Non ci sono problemi, cioè, 12 euro sono cagati, li sputi, come si chiama, li spendi così ogni giorno, quindi. Infatti. Ma io dico questo, che l'imbecille che si piazza una tana sul tetto senza pagare una concessione, ma stiamo scherzando. No, io ho mullato sì con l'antenna, ma poca roba, noi c'è dentro casa. Poi dal giorno che ho messo l'antenna ero già in regola. Vabbè, oddio, un giorno ci mancava, due giorni, dovevo pagare, fare il versamento, ma pure in regola. Mi dici quanti anni hai? Ma non è d'accordo, arrivi, ma futidini, ti abbassa e prendo, ma frega, te ne lasciamo perdere. Futidini tu, aspetta che ti diamo quanti anni ha, sei giovane, sei vecchio. Ma ti prende in giro, Ri, ti prende in giro, ma sei portante e poi tu ti abbassi a dire quanti anni hai. Mu fai quanti ti piace. 72. Allora Ri, bisogna essere, vabbè ci sei da poco, devi capire. Tanta viene niente usi, ti mira in giro e poi entra e ti fa parla perché c'è un bel che lo fa, un bel. Ma a me non me ne frega niente, può fare qui sui mari di Biagi. Però, come dico, le marine io sono in regola, anzi di più. Dopo vecchio, è meglio che vada in pensione. Sì, è Gio Mari. No, Giulio. Sì, ciao. Cosa c'è? La portante c'è, eh? Non è che solo io mi mettevo la portante. Un amico di Luca, Ciao. E beh, Luca. Hai quanto tu voglia, ciao Giulio. Ciao Luca. Cos'è? L'attacco, Oggi, secondo me, cerca di capirmi. Ti ho capito, hai anche conosciuto la voce, io non ci sono problemi, futti di. Già ci parlo io. La voce. Ma di tu non lo conosci perché non parla mai. Non è entrato, non so come era il motivo. Appunto, visto l'aria, almeno se non altro avete sentito la voce, ho fatto parlare. Ma camuffata pure. Era camuffata. Tu voglio io, te ti prendo in giro quando e come voglio. Scommesso, ci stai? A me. Fatti capire che sono io però camuffato. Ho fatto io. Aspetta, venne ora, lascia perdere, lascia perdere e via. Poi se vuoi parlare parla, ma non sono geloso io, ma la frega niente a me. Ma stavo scherzando, scusami. Stai a me, se mi vuoi fa vita, fa vita, se non ti vuoi fa vita, non fa vita. Io sono geloso invece, mio. Allora non parlo più. Adesso mi sta con l'antenna e boh. Voglio parlare solo con me e con Luca, con gli altri non ci devi parlare. Quello Luca. No, lì parla con chi vuole lì. Se non le va di parlare per dire con me, non è che me ne frega più di tanto. Non c'è. Infatti ha ragione, sto per entrare io a dirlo. Allora come non deve parlare, spacca mutande. Vai su capofuendi, vai. Buonasera a tutti, dai. Ciao Vita, ciao tutti gli altri amici, ciao Giulio e via dicendo. Voi sentite a tutti, dai. E l'unica via è lasciarlo perdere, grande uguale, così basta fa finta di nulla e parlarci sopra, tutto lì. Tanto questa gente qui è da ieri che sta rompendo, se sempre subito. Eia, ma io adesso non parlo più con nessuno, almeno imparate, ecco. Fai bene! Questa non me l'aspettavo. Ciao già! Gappa gappa! Perché cosa ti ho fatto? Niente, mi ha detto tu di non dare confidenza a nessuno. Sì è vero, neanche a me, non ne dare a nessuno. Dici Gianni, o Gianni, con chiunque, non dare confidenza a nessuno, parla solo con me. Confidenza deve essere al marito, basta. E fa bene. Già questo è un giocattolo, è fatto apposta per parlare, non è un coso che funziona così. Parli e basta, non puoi fare altro. Non è che sono giocattoli. Come si chiama? Della Chicco. Quello lo dici tu Luca che sono giocattoli, perché forse tu non hai fatto, ma c'è gente che ha fatto. Aspetta che c'era quello là, voce bassa che avevo fatto, avanti. Già, vediamo se lo riconosci tu, poi te lo dico io che è di persona, va avanti. Senti già. C'è il viaggione, claro, con quella persona là, che è lui, quella persona. Il piratone. Ma lo senti già? No, c'è la gente modulante. Sì, sto studiando la voce. E poco a studiare c'è già. mai così lontano, va veloce, boh, dai. Più o meno vicino alle poste. Dove vai qua, dove vai? Nasconditi, piattone, vai. Ciao. Vai, picca, dove vai, dimmi, sì. Ma nei chat, nella chat, cosa c'è? Fino alla lavatrice? Oh, dove? Amici. Amici uno? No, amici solo. Aspetta. Ehi, hai detto un'altra volta, sì. Ma lui sarà, non penso. Nah. Qualcuno che ha preso il nome. E fino alla lavatrice. Allora, Gianni, non devo dare confidenza a nessuno, e boh, mi... Ehi, te l'ho detto, solo a tuo marito la confidenza e basta. Boh, neanche con Torellino devo parlare più. No, no, no, solo con me. Ciao, Maria Luisa, come stai? Un bacio. Vedi che tu dai la confidenza a tutti. Cosa, Maria Luisa? No, è che c'è questo qui che sta parlando male, non se ne comprende nulla, sovramuto, la fa, capito, è un casotto. Vabbè, là, adesso ti ho salutato, cara, cara. Va bene. L'ascolto proprio pio pio. Salutoni, Maria Luisa.